Sta Avanti! bariglie di tre, vi saluto ridendo. Da Musetta venissi e il cuore non batte, ora lo sento. Grazie del tutto che il copre, gusto da pelle, c'ho gusto da pelle. Maiora, ti rodi e ridi. Non batte? No. Bene. Io vorrei vedere. Musetta. Mimì. L'hai vista? Oh, guarda. Era in carrozza vestita come una regina. Evviva, ne son contento. Un giardo si strugge d'amore. Lavoriamo. Lavoriamo. Che penna infame! Che infame penna! Thank you. offerta, erba aspetta. C'è qualche dramma, qualche mistero. Qualche mistero, qualche mistero. Il re mi chiama, il mistero. Però vedrò, vedrò, chi so. Orgi mi d'appo, peri io fatto. Mi sia permesso al nobile consesso. Ispiro irresistibile, destro dell'arma mazza. Azione coreografica allora. Sì, sì, sì. La danza con musica vocale si scombri vuole sale. Thank you. parlar, non parlar. Porto pianto di me. Marcello, la terretta, mi assai buona musetta. Lo so, lo so. Ma via torno al nido la rondine cinguetta. Ci vuole un riparo perché la fiamma sventola.

Stay. dolci arie sono la salmeria poi di futuri tenebrosi oscuri pranzare in casa il dì della vigilia mentre il quartier latino le sue vie addoppa di salsiccere cordiere quanto lezzo di frittelle imbalzava le vecchie strade ma le ragazze cantano contente la vicina di beve in casa, ma si pranzi Let's go! maestro. Al partir latin ci attende un novis. Viva chi spende. Dividiamo il bottino. Dividiamo. Dividiamo. Là ci son bel tosce scese dal cielo, perché si ricompata decenza, poi sarà via di pelo. Farò la conoscenza la prima volta, un parmi consore, e dopo il mio ridicolo già un rasoio. Andiamo. Io resto per terminar l'articolo di fondo del pastore. Arresto. Cinque minuti conosco il mestiere. Aspetteremo da passo del portiere. Parli un dolore che coro. Cinque minuti. Taglia corta la coda al tuo castore. Sono in vena. Chi era? Una donna. Si sente meglio? Sì. Qui c'è tanto freddo. Segga vicino al fuoco. Aspetti un po' di vino. Grazie. A lei. Poco. Così.